Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un settore, quello dei servizi informativi, che possono essere messi a disposizione di chi viaggia, in cui si potrebbe fare molto, molto più di quanto pochissimo non si faccia. Per la verità, l'idea è anche in giro da un po'. Anni fa, primi anni 90, ci fu chi tentò di mettere in funzione sui treni dei pendolari dei corsi d'inglese. Ogni mattina una lezione. Il successo, vabbè, non fu proprio straordinario, però è un dato di fatto che la proposta del mezzo pubblico, che è strategica per il futuro, se potesse arricchirsi di servizi, ecco che diventerebbe sicuramente più appealing. Per esempio, io che prendo il treno tutti i giorni, ho sempre sognato di poterci pagare le bollette, di poterci spedire una raccomandata dal treno, cosa che oggi con i mezzi informatici che ci sono sarebbe sicuramente possibile. E poi c'è anche un altro fattore da considerare, che nell'intervista di Federico Pedrocchi emerge chiaramente: la possibilità per questo tipo di servizi di produrre dei ricavi anche per chi appunto il mezzo pubblico lo gestisce, e questo potrebbe anche contenere o addirittura abbassare un pochettino i costi del servizio stesso. E ora la parola a Federico Pedrocchi. Sono sul sedile posteriore di un taxi con Nicolo Strocco della società Cermitalia. È una startup, siete partiti da poco? Sì, è una startup, il progetto si chiama Thatcher, abbiamo iniziato ormai da poco, l'azienda è stata fondata un annetto e mezzo fa con mio fratello Lorenzo Strocco. E noi cosa ci facciamo qua dietro in un taxi che però è in una fiera Smau e quindi è una demo? Stiamo guardando, questo che cos'è? Un poggiatesta di sicurezza del sedile di fianco, esatto, al guidatore, però qui stiamo vedendo un sacco di filmati. Allora, il filmato sono all'interno di un tablet da 7 pollici che fornisce informazioni turistiche e culturali inerenti alla città dove il taxi ovviamente gira, ovviamente anche informazioni inerenti ai messaggi pubblicitari di natura locale e nazionale. Però qui si può toccare anche, un touchscreen. Assolutamente, un touchscreen, il touch è totalmente interattivo. Scegliere anche una lingua. Puoi scegliere la lingua, anche perché soprattutto per quanto riguarda le informazioni turistiche, i taxisti stessi hanno detto ci sarebbe la necessità di avere informazioni per i turisti, soprattutto non italiani, perché talvolta ci sono delle difficoltà linguistiche. Con la lingua esatto. Non ci siamo ancora molto bene in Italia. E qui uno può cercare anche però luoghi, ristoranti, punti importanti, culturali. Noi abbiamo deciso di lasciare due icone, una solo informazioni inerenti alla pubblica amministrazione e al settore monumentale, un'altra icona inerente ai punti di interesse più, diciamo, interessanti della città, sì, tra cui ristoranti, centri benessere, club, hotel, negozi, shopping e ancora più importante cultura. Voi avete calcolato che mediamente in un tragitto si sta sul taxi almeno 15 minuti? Noi calcoliamo mediamente dagli 8 ai 15 minuti, 8-12 Torino, Milano e Roma, ovviamente tragitti più lunghi anche perché il traffico è maggiore. Allora, lei ha detto Torino perché questo sta andando in sperimentazione su un centinaio di taxi a Torino, poi passa a Milano, poi passa a Roma. Sì, a Torino stiamo parlando di 50 taxi. 50. E a breve andremo a montarli, aumenteremo la flotta su Torino fino a 100, andremo a montarli a Roma e a Milano una flotta di 400-450 per città. Ma dal punto di vista invece del business, qua c'è della pubblicità che va a chi? Cioè, per il taxista paga l'attrezzatura? Assolutamente no. Ce l'ha gratis e la pubblicità, esatto, trovate voi. Noi abbiamo un contratto ovviamente con i taxisti non pagano l'attrezzatura, il montaggio, il cablaggio, la fornitura del device è tutta fatta dall'azienda Cermitalia. E poi c'è un contratto in essere col taxista dove verrà, a scadenza del contratto, gli viene dato un tablet, un device. Il vantaggio del taxista e dell'insieme del servizio taxi è che si rende appetibile per il pubblico, insomma aggiunge un servizio interessante. C'è anche la possibilità di pubblicizzare l'azienda di taxi, infatti stiamo creando delle icone interattive fatte ad hoc per ogni singola cooperativa taxi. Però prima lei mi ha detto anche che il taxista può avere un vantaggio economico facendo un po' il venditore del vostro, esatto, servizio. Come avviene? Noi riteniamo che il taxista stesso sia il primo commerciale dell'azienda e del progetto. Poniamo un esempio, un ristoratore sale sul taxi e si inizia a interagire con l'oggetto e prova interesse per l'oggetto, può essere il taxista stesso a dare il nostro biglietto da visita. Nel momento in cui ci chiama il ristoratore e nel momento in cui vendiamo al ristoratore un'icona, noi stessi chiameremo il taxista e diremo: guardi, il ristorante X ci ha dato, abbiamo venduto un'icona a questo ristorante, ti dobbiamo riconoscere la provvigione sulla vendita. Prende una quota della pubblicità che è incassata. Questo è per ovviamente invogliare i taxisti medesimi a fare pubblicità sana dell'oggetto. Installare questo sul taxi ci vuole poco, insomma, è un poggiatesta vostro che da quanto ci vuole? Allora, il poggiatesta è il poggiatesta della macchina. Noi abbiamo quello della macchina? Sì, perché per legge non potevamo sostituire il poggiatesta. Abbiamo creato una cuffia che alloggia tablet, che andiamo a infilare sopra il poggiatesta omologato, e attraverso un cablaggio che va a inserirsi, che va ad attaccarsi all'accendisigari dell'autovettura, si crea l'alimentazione. Ovviamente questo significa che quando il taxi è acceso il tablet si accende e quando viene spento il tablet si spegne. Questo è molto importante perché significa che non viene mai ad inficiare sulla batteria dell'autovettura. E tempo di installazione? Guardi, dai 20 minuti alla mezz'ora, non di più. Quindi un taxista non deve lasciare giù la macchina, esatto. Basta che passi un attimo nella vostra officina. È ancora più semplice perché noi andiamo a collaborare direttamente con gli elettrauto delle aziende, elettrauti convenzionati con la cooperativa. Quindi va una mezz'ora dal suo elettrauto, che già conosce, e l'elettrauto che abbiamo prima, a cui prima abbiamo spiegato l'oggetto, cosa deve fare, come si monta, lo fa in mezz'ora e l'oggetto è montato. Grazie, buon lavoro. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.